quel gran genio del mio amico. Lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po', e non picchieresti in testa, così forte no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolce. Certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare, evitando le buche più dure, senza per questo cadere nelle tue paure, gentilmente, senza fumo, con amore, dolcemente viaggiare, rallentando per poi accendere.